Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Amedeo Bacigalupo di Cloud 9 per presentare il film Resistance, la voce del silenzio di Jonathan Jakubowicz, online da martedì 23 giugno 2020. Amedeo, ben trovato. Ben trovato a te Federico, buongiorno a tutti. Ce lo presenti? Sì, il film racconta le vicende inedite della vita di Marcel Marceau, che è quel mimo straordinario che noi conosciamo. Lui ha calcato le scene di tutti i teatri del mondo, di fatto, dagli anni 50 fino alla sua morte, che è avvenuta nel 2007. Marcel Marceau, oltre ad essere un artista straordinario, è anche un essere umano straordinario, perché fu anche eroe di guerra, nella misura in cui, alla vigilia dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, Marcel Marceau, che in realtà si chiamava Marcel Mangel, era un giovane ebreo che lavorava di giorno nella macelleria del padre e di notte affinava le sue arti di rappresentazione scenica nei piccoli teatri della città. Aveva due passioni, oltre al mimo, un'altra passione si chiamava Emma, ed era una giovane donna molto attiva politicamente. All'inizio, per compiacerla e per conquistarla, perché coinvolto dalla causa, decide di aiutarla ad accogliere in questa piccola cittadina 123 orfani ebrei scampati dalla Shoah ed accudirli. Ad un certo punto però poi l'avanzata dei tedeschi invade praticamente la Francia del Sud e quindi questi orfani vanno salvati. Marcel Marceau si unisce alla resistenza e, diciamo, decide di gettare il cuore oltre un ostacolo per una missione impossibile, cioè portare in salvo questi bambini in Svizzera, come facendogli attraversare di fatto le Alpi a piedi. Questo è la tradizione che narra questo film, è una, diciamo, un film di avventura molto avvincente, è una storia vera e anche una storia d'amore. Tra l'altro si parla anche di uno dei principali criminali nazisti in Francia. Esatto, che era il boia di Lione, Klaus Barbie. Sì. Esattamente. E una cosa che mi ha colpito è il discorso che fa il nostro protagonista rispetto al terribile periodo nel quale stava vivendo. Più della vendetta, quello che è importante è salvare vite in un contesto del genere. E questo l'ho trovato il messaggio più forte del film. Assolutamente, perché poi la vendetta di fatto non ti fa superare l'orrore, no? Cioè, quindi salvare vite di fatto ti fa ricordare che sei un essere umano, se ti vendichi molto probabilmente fai il gioco dei tuoi carnefici fondamentalmente. Sì, sì. All'estero che percorso ha fatto questo film? All'estero è avuto più o meno lo stesso percorso che avrà da noi, perché è intappato anche lui nelle logiche dei lockdown, quindi ha avuto anche negli Stati Uniti una uscita sulle piattaforme, che è andato bene, negli altri paesi ancora non è uscito. Il film è una coproduzione tra Francia, la Germania e l'America. Ahimè, considerando tutto quello che sta succedendo e, diciamo, la chiusura delle sale, che non è soltanto un problema italiano ma un problema mondiale, questa uscita di questo film è stata procrastinata. Del regista Jakubowicz cosa sappiamo? Lui è un regista venezuelano che ha esordito con un film che si chiamava Sequestro Express, che è stato un box office hit nel Venezuela, ma scomodo per il regime Chavez, e quindi lui fu costretto a lasciare il Venezuela, a trasferirsi negli Stati Uniti, in cui ha fatto un film con De Niro, che era Hands of Praise, sempre con Edgar Ramirez, che qui fa un piccolo ruolo, su un famoso boxer panamense. Quindi di fatto questo è il suo terzo film, il terzo o quarto film. Dove lo avete intercettato e come avete deciso poi la distribuzione? in uno dei vari mercati, perché insomma noi distributori, se facciamo i nostri scouting leggendo le sceneggiature, perché insomma chiaramente i film si comprano quando ancora non sono finiti. Abbiamo letto la sceneggiatura di questo film, credo fosse a Toronto del 2018, e ci ha colpito proprio perché era una vicenda straordinaria che io personalmente non conoscevo. Io non sapevo che Marcel Marceau era stato anche un eroe di guerra, e ci ha colpito moltissimo la sceneggiatura. Ci siamo innamorati subito di questa storia e quindi abbiamo acquistato i diritti per l'Italia. Il film quindi poi lo abbiamo visto per la prima volta più o meno a Cannes dello scorso anno, quindi un anno fa, e poi abbiamo deciso di eseguirlo per il 2020. In realtà il film doveva uscire al cinema, doveva uscire nelle sale, però ad un certo punto ci siamo detti insieme a Vision che avrebbe avuto insomma un percorso distributivo altrettanto valido sulle piattaforme, come sta avvenendo per tanti film che insomma sono stati, insomma, visto la chiusura delle sale, sono usciti sulle piattaforme, e quindi abbiamo deciso di una data, il 3 giugno, perché poi nel frattempo noi abbiamo fatto anche uscire un altro film sempre sulle piattaforme che era destinato alla sala cinematografica, che era Le cose che non ti ho detto, ed è andata molto bene, e quindi abbiamo deciso di fare la stessa operazione con questo film su cui noi avevamo puntato molto. Resistance, la voce del silenzio di Jonathan Jakubowicz, online da martedì 23 giugno 2020. Un saluto e un ringraziamento al distributore Amedeo Bacigalupo di Clown. Ringrazio anche voi. Un abbraccio in bocca al lupo e a presto. Grazie. Viva il lupo. Grazie, a presto. Con Francesco Fanuele, regista del film Il Regno, in streaming da venerdì 26 giugno 2020. Francesco, ben trovato. Buongiorno, buongiorno, ciao, buongiorno a tutti. Come lo presenteresti in breve? Ma una commedia, diciamo, originale, spero, insomma, una storia al limite del tempo, al limite della realtà di oggi. Ho scelto di raccontare un mondo paramedievale, ai confini di Roma, con Stefano Tesi che lo eredita da figlio legittimo, che ne sale al trono. Quindi diciamo una commedia classica, perché riprende ovviamente tanti canoni della nostra commedia all'italiana più amata del passato, ma anche con ovviamente delle tematiche e dei modi di raccontare moderni, ecco. Come nasce questo film? Io ho fatto il centro sperimentale, sono diplomato in regia nel 2015, e al centro sperimentale si fanno i corti di diploma, si diploma con un cortometraggio, e il mio cortometraggio è esattamente Il Regno, sempre con protagonista Stefano Fresi, che all'epoca mi fece questo grande regalo di recitare nel mio corto di diploma, ed era esattamente la stessa storia, ovviamente in forma di cortometraggio. Io sono andato per parecchi festival con questo cortometraggio e poi l'ho portato in Fandango da Domenico Procacci insieme ad un soggetto di film, perché già l'idea comunque di un uomo che ereditava un regno medievale ai confini di Roma era un'idea che in un cortometraggio stava un po' stretta, e quindi diciamo con Domenico, lui si è poi innamorato del progetto, e insieme questo film mi ha fatto fare questa follia, ecco. Come l'hai ampliato, come hai deciso poi di lavorarci sopra? Non è stato semplice, avevo da raccontare tanto, e secondo me poi dall'altro nemmeno il film riesce poi a raccontare tanti spunti, scarsi comici, di commedia che l'idea presentava. E io ho lavorato sulla solitudine del protagonista, nel senso che gli ho dato tutta una sfaccettatura, diciamo, di un suo problema tattico, che è quello di essere un uomo conducente dell'ATAC, no? Che diciamo nell'immaginario collettivo, una persona che lavora in mezzo alla gente, però c'è sempre il cartello non parlare al consulente, quindi proprio è un uomo completamente solo, non ha più appunto il padre che l'ho abbandonato anni prima, la madre non c'è più, e lui eredita questo regno, e il paradosso è proprio quello di ereditare tanta compagnia, perché sono un re, ho questi sudditi strampalati, pazzi, quello che vogliamo, però ho tanto calore intorno. Il paradosso del potere è proprio questo, invece c'è tanta distanza, quando diventi un re sei ancora più solo prima, e quindi questo è quello che ho messo nel film. In più, il corto era sull'idea comica di una generosità di questo tipo, e il film ho potuto ampliare tutti questi aspetti un po' più drammaturgici del personaggio, ecco. È interessante il fatto fatto che per certi versi non si risolva, mantenga sempre questa atmosfera dall'inizio alla fine il film. Sì, perché non mi piaceva comunque dare una risoluzione personale, nel senso che uno dei temi principali del film era imparare a bastarsi da soli. Questo il personaggio protagonista lo fa, ad un certo punto compie questo arco, nel senso che capisce che pur essendo stato, essendo un re, non riesce comunque a riempire quella voglia di valore, di sguardo, che è solamente una persona molto molto sola o che soffre comunque la solitudine, riesce a colmare. E quindi questa storia, diciamo, lo istruisce a questo, insomma, impara che anche questo calore umano che una persona sola vuole ricevere lo si può trovare anche all'interno di se stessi, anche solo nel raccontare quello che è accaduto nella propria vita. Quindi diciamo che su questo il film ha un arco un po' più compiuto. Diciamo sul mondo del regno medievale, no, non si risolve perché è troppo folle per risolversi. L'assemblaggio di questo cast? Beh, con Stefano l'ho già detto, era già il cortometraggio, quindi è stato facile portarlo nel film, era già innamorato dell'idea e tutto. Max è stata una sorpresa meravigliosa, io ho fatto diversi provini da diversi attori che dovevano interpretare questo avvocato Sanna, che era un personaggio importantissimo, come poi si vede nel film, un personaggio che avrebbe retto, diciamo, tutta la parte comica, ma anche la parte di rapporto con il protagonista. E un giorno apre la porta Max Tortora, questo uomone di 2 metri, entra nella stanza dei provini, io folgorato, sapevo che doveva fare il provino, però quando ha fatto il provino è stato amore a prima vista, ho detto loro due insieme sono una bomba, sono esplosivi, e così sono, me lo dicono tutti, quindi credo sia la verità, nel film sono veramente meravigliosi, veramente una grande sintonia, e poi ho completato con grandissime attrici la scoperta, il suo Dini Peluso, che ormai scoperta non è più, ma questo è il suo primo lungometraggio dopo La compagna del cigno, insomma, poi ha fatto diverse fiction, diversi film, ma fu Dini Peluso è un'attrice che ne sentiremo parlare a lungo, e poi c'è Silvia D'Amico, che è una delle attrici più promettenti del nostro panorama, io anche lei l'ho pensata subito a infilare in questo cast, e la chimica anche con Stefano è stata subito meravigliosa. All'origine hai avuto dei riferimenti letterari e cinematografici? Letterari no, non ne ho avuti. Cinematografici ovviamente nel senso che il film, diciamo, ha tutta una serie, diciamo, a livello di immagine, uno vede subito Non ci resta che piangere, L'allarma da Francaleone. Sono sicuramente dei riferimenti che uso, ma perché ce li ho dentro. Io sono innamorato della nostra commedia italiana, Germi, Scola, Monicelli. Insomma, è tutta quella scuola lì che comunque mi ha formato come autore di commedia. Quindi diciamo che hanno girato un po' tutti all'unisono. Il film di costume rimanda a quei film lì, però dentro ci sono anche le loro scritture di battute, c'è tante cose che ho preso dalla commedia italiana, su cui ho studiato, su cui mi sono formato, ecco. L'uscita in streaming prevede anche la sala cinematografica poi? Sì, nel senso che il film verrà distribuito sulle piattaforme a partire dal 26, poi farà delle proiezioni nelle arene estive in tutta Italia, quindi diciamo che sì, nel senso al cinema se vuole può proiettarlo. Alla fine di questi, diciamo, 2 mesi estivi, verso settembre, ottobre, potrebbe avere una distribuzione in sala, appunto anche per risollevare un po', diciamo, questo momento di crisi, quindi sì, molto probabilmente lo vedremo anche al cinema. Il Regno in streaming da venerdì 26 giugno 2020, un saluto e un ringraziamento al regista Francesco Fanuel. Grazie. Un abbraccio, grazie, in bocca al lupo e alla prossima, grazie. Francesco. Alla prossima, grazie, buongiorno a tutti. Con Alberto Rizzi, regista del film Si muore solo da vivi, on demand dal 19 giugno 2020. Ben trovato. Grazie, grazie Federico e grazie a tutti gli ascoltatori. Come lo presenteresti? È una commedia romantica ambientata sulle sponde del Po, che racconta delle seconde occasioni, è una storia di rivincita personale, no? Sentimentale di questo protagonista Orlando, interpretato da Alessandro Roia, che deve rimettere in moto la sua vita dopo essersi perso nei meandri della propria pigrizia e dopo una tragedia personale come quella del terremoto che ha colpito la sua famiglia, deve ritrovare la via d'uscita e gli bussano alla porta di nuovo delle occasioni, l'amore, gli amici, la musica, e lui deve decidere come prenderli in mano. Com'è nato tutto? Dai sopralluoghi sulla terra del Po, la nostra produttrice Valentina Zanella, che ha elaborato anche il soggetto con Marco Pettinello, lo sceneggiatore, e conosceva molto bene questi posti della Bassa Padana, che hanno un animo che a me è sembrato quello del Mississippi, di New Orleans, una specie di New Orleans italiana, cioè questa pigrizia però operosa, non inerte, non nociva, non negativa, un posto fatto di balere color zafferano, musicisti di provincia, lavoratori pakistani, un bellissimo ambiente che è portatore di storie, e poi la vicinanza con il fiume crea subito delle suggestioni metaforiche. E queste storie ci hanno ispirato a raccontare questa storia, che sì, la storia personale, ma anche corale. Nel film ci sono molti personaggi che attornano al protagonista, con un cast anche molto particolare, perché c'è Neri Marcorè, Francesco Pannofino, Alessandra Mastronardi e tre camei eccezionali come Amanda Lear, Ugo Pagliai e Red Kantian. Ecco, proprio a questo proposito, come sei riuscito a mettere insieme questo cast? Devo dire che è stato incredibile che tutti questi attori abbiano deciso di partecipare a quella che è comunque un'opera prima. Sono molto contento che abbiano intravisto nella sceneggiatura la mia visione, che l'abbiano sposata, e veramente tutti si sono messi a servizio della storia, perché appunto in una storia corale è difficile che ci sia quello che emerge, benché Alessandro sia indubbiamente il protagonista indiscusso, gli altri ruoli erano tutti attorno, non c'era nessuno che primeggiava, e quindi sono molto contento che tutti questi grandi attori si siano messi a servizio del film, e penso che il film ne abbia tratto grande beneficio, perché in tutti i ruoli si vede qualcuno comunque con una grande esperienza e che il pubblico già ama per altri film o per altre cose. Ci hai parlato un po' del contesto, che è stato anche fonte di ispirazione, e invece la vicenda ha dei tratti autobiografici? No, quando scrivo cerco sempre di evitare la biografia, di andare il più lontano possibile dalla biografia, anche se poi è inevitabile che attingi alla vita, no? La vita è il primo film a cui assistiamo quotidianamente, cerchiamo di rubarla. Però mi piace raccontare storie che siano lontane da me, e quindi l'ispirazione sono state piuttosto le storie degli altri, le storie dei musicisti che ho incontrato nella vita. Mi piace osservare e quindi poi creare dei personaggi osservando da tante piccole cose che mi capitano nella vita. Ecco, il lavoro di ispirazione si fa così, almeno per me, andando in giro, osservando, guardando. Salta all'occhio anche un'estetica tra il pop e il vintage. Sì, quello che cerco sempre io è di fare delle inquadrature o raccontare la storia in modo il più empatico possibile con il pubblico, che da una parte faccio una grande ricerca fotografica, visiva, perché ci tengo comunque a un'estetica particolarmente audace, a volte anche magari patinata, ma cerco di andare indietro con la memoria, no? Di tornare a qualcosa che lo spettatore può riconoscere come qualcosa che ha già amato, e quindi cerco un look un po' retro, no, diciamo così, o vintage, come tu hai giustamente detto, nei costumi, nelle scenografie, nelle storie, anche nell'ingenuità di questa storia che sembra appunto uscita da una favola di qualche tempo fa. Questa scelta on demand, ora che c'è stata anche la riapertura dei cinema? È un esperimento di parallelismo di distribuzione. Ovviamente noi dovevamo uscire in sala il 2 aprile, e poi il film ha avuto un blocco dovuto al Covid, e quindi abbiamo ricominciato dall'on demand, che appunto siamo su tutte le piattaforme dal 19, ma con la riapertura dei cinema qualche cinema ha deciso di proiettare il film, e probabilmente si troverà già dalla settimana prossima in qualche cinema. So che Fandango, che è il distributore, sta lavorando anche in questo senso, vediamo, perché sarebbe molto bello che ci fosse la doppia distribuzione, ecco, anche per gli spettatori che vogliono vederlo in sala oppure on demand a casa. Si muore solo da vivi, on demand, da venerdì 19 giugno 2020. Un saluto e un ringraziamento al regista Alberto Rizzi. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, grazie Federico, e grazie a tutti gli ascoltatori.